Anzitutto, lo scambio del capitale col suo ambiente non capitalistico urta contro le difficoltà dell'economia naturale, dei rapporti sociali consolidati e dei bisogni ristretti dell'economia contadina, patriarcale e artigiana. Per vincerle, il capitale ricorre a mezzi eroici, alla scure della violenza politica. Nella stessa Europa, il suo primo gesto è il superamento rivoluzionario dell'economia naturale feudale. Nei paesi transoceanici, il soggiogamento e la distruzione delle comunità tradizionali è il primo atto di nascita storico mondiale del capitalismo, e in seguito il fenomeno destinato ad accompagnare in modo continuo l'accumulazione. Attraverso l'erosione dei rapporti primitivi dell'economia naturale contadina, patriarcale, di quei paesi, il capitale europeo ne apre le porte allo scambio delle merci e alla produzione mercantile, trasforma i loro abitanti in acquirenti di merci capitalistiche e nello stesso tempo accelera la propria accumulazione, appropriandosi direttamente masse di materie prime, ricchezze tesaurizzate dai popoli soggetti. Fin dall'inizio del secolo XIX si accompagna a questi metodi l'esportazione del capitale accumulato dall'Europa verso i paesi non capitalistici delle altre parti del mondo, dove esso trova su un nuovo terreno, sulle macerie delle forme di produzione indigene, un nuovo raggio di acquirenti delle proprie merci e perciò un'ulteriore possibilità di accumulazione. Così, grazie all'azione reciproca su strati sociali e paesi non capitalistici, il capitalismo si estende sempre più, accumulando a loro spese, ma nello stesso tempo erodendoli e scacciandoli per occuparne il posto. Se non che, quanti più paesi capitalistici partecipano a questa caccia a territori di accumulazione, quanto più ristrette sono le zone di produzione non capitalistica, ancora aperte all'espansione mondiale del capitale, quanto più si inasprisce la lotta di concorrenza per quei campi di accumulazione, tanto più le scorribande del capitale sulla scena del mondo si trasformano in una catena di catastrofi economiche e politiche, crisi mondiali, guerre, rivoluzioni. Ma attraverso questo processo il capitale prepara in duplice modo il proprio crollo. Da una parte, allargandosi a spese di tutte le forme di produzione non capitalistiche, si avvia verso il momento in cui l'intera umanità consisterà unicamente di capitalisti e salariati, e perciò un'ulteriore espansione e quindi accumulazione risulterà impossibile. Dall'altra, nella misura in cui questa tendenza si impone, acuisce a tal punto i contrasti di classe e l'anarchia economica e politica internazionale, che prima ancora che l'ultima conseguenza dello sviluppo economico, cioè il dominio assoluto e indiviso della produzione capitalistica nel mondo, sia raggiunta, dovrà provocare la rivolta del proletariato internazionale contro la persistenza della dominazione capitalistica. Questo, in breve, il problema e la sua soluzione, come io la vedo. A primo aspetto può sembrare un'elucubrazione puramente teorica, tuttavia l'importanza pratica del problema è chiara perché si ricollega al fatto più saliente della vita politica attuale, l'imperialismo. Universalmente note sono ormai le manifestazioni esterne tipiche del periodo imperialistico: lotta di concorrenza fra stati capitalistici per le colonie, le sfere di interessi, i campi di investimento del capitale europeo, sistema dei prestiti internazionali, militarismo, protezionismo doganale, ruolo dominante del capitale finanziario e dell'industria cartellizzata nella politica mondiale. Il loro legame con l'ultima fase dell'evoluzione capitalistica, la loro importanza per l'accumulazione del capitale, sono ormai così evidenti che li riconoscono sia i rappresentanti sia gli avversari dell'imperialismo. Ma la socialdemocrazia non può accontentarsi di questo riconoscimento empirico. Si tratta per essa di determinare in forma esatta le leggi economiche di questo intreccio di fenomeni, scoprire la radice vera del grande e variopinto insieme di manifestazioni dell'imperialismo, giacché, come sempre in casi simili, solo la esatta comprensione teorica del problema può dare anche alla nostra prassi nella lotta contro l'imperialismo la sicurezza, lucidità e forza d'urto che la politica del proletariato esige. Lo sfruttamento, il pluslavoro, il profitto erano fatti noti anche prima che uscisse il Capitale di Marx. Ma solo l'esatta teoria del plusvalore e della sua formazione, della legge del salario dell'esercito industriale di riserva, sviluppata da Marx sulla base della teoria del valore, poteva dare alla prassi della lotta di classe la sua ferrea base, la base sulla quale il movimento operaio tedesco e sulle sue orme internazionali si sviluppò fino alla Grande Guerra. Che da sola la teoria non basti, che alla più bella teoria si possa accompagnare la pratica più miseranda, lo dimostra l'attuale sfacelo della socialdemocrazia tedesca. Ma questo sfacelo si è verificato non per conseguenza, ma a dispetto delle conquiste teoriche del marxismo, e lo si potrà superare alla sola condizione di rimettere la prassi del movimento operaio in accordo con la sua teoria. E come in generale, così in ogni settore importante della lotta di classe, una solida base della nostra politica può essere attinta solo alla teoria di Marx, ai molti e insuperati tesori della sua opera fondamentale. Che la spiegazione delle radici economiche dell'imperialismo debba essere in particolare derivata dalle leggi dell'accumulazione del capitale e con queste armonizzata, non vi è dubbio, posto che l'imperialismo nel suo insieme non è ad una considerazione generale empirica se non uno specifico metodo di accumulazione. Ma come riuscirvi? Finché si rimane acriticamente alle premesse del secondo libro del Capitale, fatte apposta per una società in cui la produzione capitalistica è l'unica e l'intera popolazione consiste di soli capitalisti e salariati. Per quanto si possano più esattamente determinare le molle economiche interne dell'imperialismo, una cosa è intanto chiara e universalmente riconosciuta. La sua essenza consiste nell'espansione del dominio del capitale dai vecchi paesi capitalistici a territori nuovi e nella concorrenza economica e politica fra quelli per la conquista di questi. Ma come si è visto nel libro di Marx, si suppone che il mondo intero sia ormai una nazione capitalistica, che tutte le altre forme sociali ed economiche siano già scomparse. Come spiegare l'imperialismo in una società che non gli concede più spazio? Qui ho creduto di dover innestare la mia critica. L'ipotesi teorica di una società composta esclusivamente di capitalisti e lavoratori, perfettamente giustificata per determinati scopi dell'indagine, come nel libro del Capitale di Marx, l'analisi del capitale singolo e delle sue pratiche di sfruttamento nella fabbrica, mi parve insufficiente e perturbante nell'analisi dell'accumulazione del capitale sociale totale. Poiché questa rappresenta l'effettivo processo storico dell'evoluzione capitalistica, riesce secondo me impossibile comprenderla se si prescinde da tutte le condizioni di questa realtà storica. L'accumulazione del capitale come processo storico si compie, dal principio alla fine, all'interno di un ambiente di diverse formazioni pre-capitalistiche. Si apre una via nella lotta politica costante e in un gioco perenne di azioni e reazioni economiche con esse. Come dunque abbracciare questo processo e comprenderne le leggi interne di sviluppo in una finzione teorica priva di vita che nega l'esistenza di questo ambiente, di questa lotta, di queste azioni e reazioni? A questo punto pare a me necessario abbandonare il presupposto del libro di Marx e porre l'analisi dell'accumulazione come processo d'insieme sulla base concreta del ricambio organico fra il capitale e il suo ambiente storico. Solo così è possibile spiegare il processo partendo dalle teorie fondamentali di Marx e in completa aderenza con le altre parti della sua opera principale. Del resto, Marx ha posto il problema dell'accumulazione del capitale totale senza rispondervi. Ha accettato come presupposto della sua analisi una società puramente capitalistica, ma non solo non ha condotto a termine l'analisi su questa base, ma l'ha interrotta proprio su questa questione cardinale. Per dare una rappresentazione palpabile della sua concezione, elaborato alcuni schemi matematici, ma ne aveva appena cominciato l'applicazione a possibilità sociali pratiche e la verificazione da tale punto di vista quando la malattia prima e la morte poi gli strapparono di mano la penna. La soluzione di questo, come di altri problemi, era rimasta in eredità ai suoi discepoli e la mia accumulazione doveva essere un tentativo in questo senso. La soluzione da me sottoposta poteva essere giudicata giusta o sbagliata, la si poteva criticare, combattere, completare, sostituire con un'altra. Nulla di tutto questo è avvenuto. Qualcosa di inatteso si è verificato. I competenti hanno dichiarato che non esisteva nessun problema da risolvere. Le argomentazioni svolte da Marx nel secondo libro del Capitale sono, hanno detto, una spiegazione sufficiente dell'accumulazione. Gli schemi ivi presentati mostrano chiaro e tondo che il capitale può magnificamente crescere e la produzione allargarsi, anche se nel mondo non esiste che la produzione capitalistica. Questa è il mercato di sbocco di se stessa, e solo la mia totale incapacità di afferrare l'ABC degli schemi di Marx poteva sviarmi al punto da vederci un problema. Si pensi. È vero che nell'economia politica il problema dell'accumulazione, della possibilità di realizzare il plusvalore, si dibatte ormai da un secolo. È vero che il secondo libro del Capitale non è, come il primo, un'opera compiuta, ma un torso, una riunione slegata di frammenti e schizzi più o meno sviluppati, sul genere di quelli che uno studioso butta sulla carta ad uso personale. Un'opera la cui rielaborazione fu impedita e infine interrotta dalle condizioni di salute dell'autore. Soprattutto l'analisi dell'accumulazione del capitale totale, di cui qui si discute, è, come ultimo capitolo del manoscritto, la meno riuscita. Su 450 pagine complessiva, essa non occupa che 35 pagine e si interrompe a metà. È vero che quest'ultima parte del volume era considerata dallo stesso Marx, secondo la testimonianza di Engels, bisognosa di rielaborazione e rimase, sempre secondo lo stesso testimone, non più di una trattazione preliminare dell'argomento. Si pensi come, nel corso della sua analisi, Marx riponga di continuo il problema della realizzazione del plusvalore e sollevi in forma sempre diversa i suoi dubbi e confermi perciò stesso la difficoltà e gravità della questione. Ma se la produzione capitalistica forma a se stessa un mercato sufficiente e permette un continuo allargamento nella misura dell'intero valore accumulato, diventa mistero un fenomeno dell'evoluzione moderna, e cioè la caccia affannosa ai più lontani mercati di sbocco e all'esportazione di capitali, cioè le manifestazioni più clamorose dell'attuale imperialismo. Perché tanto chiasso? Perché la conquista delle colonie? Perché le guerre dell'oppio fra il 40 e il 60 e ora le baruffe intorno alle paludi del Congo o al deserto mesopotamico? Se ne stia a casa il capitale e si nutrirà benissimo. Krupp produca per Thyssen, Thyssen per Krupp, continuino a investire i loro capitali nelle loro imprese e le allarghino gli uni per gli altri, e così via in cerchio. Il moto storico del capitale diventa incomprensibile e con esso l'odierno imperialismo. La mia teoria è che i capitalisti e i lavoratori da essi sfruttati costituiscono, per i mezzi di consumo prodotti dalla grande industria, un mercato che tende bensì a crescere con l'aumento della ricchezza dei primi e del numero dei secondi, ma non con la stessa rapidità dell'accumulazione del capitale e della produttività del lavoro, e che non basta a se stesso. La grande industria deve perciò cercarsi un mercato addizionale, al di fuori del proprio raggio, nelle professioni e nazioni che tuttora producono in maniera non capitalistica. Lo trova, infatti, e lo allarga vie più, ma non abbastanza rapidamente, poiché questo mercato addizionale non possiede affatto l'elasticità e capacità di allargamento del processo di produzione capitalistico. Appena la produzione capitalistica è divenuta grande industria sviluppata, come è il caso per l'Inghilterra fin dal secolo XIX, essa contiene la possibilità di una tale espansione a sbalzi da superare in breve l'estensione del mercato. Ogni periodo di prosperità seguito da un sensibile allargamento del mercato è perciò a priori destinato a breve vita, e la sua fine necessaria è la crisi. Dove possono prendere i lavoratori il denaro con cui dovrebbero realizzare, con l'acquisto dei mezzi di sussistenza, il plusvalore del capitalista? Al capitalista singolo, è vero, non interessa un bel nulla da dove il cliente attinga mammona, purché lo possieda, ricevuto in regalo, rubato, ottenuto mediante la prostituzione, che importa? Ma per la classe capitalistica nel suo complesso rimane il fatto incontrovertibile che solo dai capitalisti i lavoratori ricevono, in cambio della propria forza lavoro, i mezzi per coprire i loro bisogni, i salari. Li ricevono, come ho già detto, sotto due forme, corrispondentemente alle condizioni della moderna produzione di merci, come denaro prima, come merci poi, dove il denaro torna continuamente al suo punto di partenza, le tasche della classe dei capitalisti. Questa circolazione del capitale variabile esaurisce interamente il potere d'acquisto dei lavoratori e il loro contatto di scambio coi capitalisti. Se perciò alla classe lavoratrice sono destinati mezzi di sussistenza, ciò non significa, dal punto di vista sociale, che il capitale realizzi il plusvalore, ma che fornisce capitale variabile in merci, ritirando in tal modo, sotto forma di denaro, per lo stesso ammontare, il capitale derivante dal precedente periodo di produzione. Il capitalismo inglese catapulta dal 1820 al 1860 i suoi mezzi di produzione, carbone e ferro, verso i paesi dell'America del Nord e del Sud non capitalistici. E non solo non va a catafascio, ma cresce e prospera ricevendo dalla stessa America cotone, zucchero, riso, tabacco e in seguito grano. Il capitalismo tedesco catapulta oggi con slancio febbrile le sue macchine, le sue locomotive, i suoi laminati, i suoi prodotti tessili verso la Turchia non capitalistica. E invece di andare a catafascio, è pronto a dar fuoco ai quattro angoli del mondo pur di monopolizzare in misura sempre più larga questi affari. Per aprirsi la possibilità di catapultare le proprie merci capitalistiche nella Cina non capitalistica, Inghilterra e Francia hanno condotto in Estremo Oriente per decenni guerre sanguinose, e a cavallo del secolo XX il capitale unito d'Europa ha organizzato una crociata internazionale contro la Cina. Sì, il commercio di scambio con contadini e artigiani, cioè con produttori non capitalistici, nella stessa Europa, in ogni paese, davanti ai nostri occhi è uno dei fenomeni più comuni e nello stesso tempo, come tutti sanno, una delle condizioni ineliminabili di esistenza dell'industria capitalistica. È senz'altro chiaro che l'incremento annuo del genere umano può avere importanza per l'accumulazione capitalistica solo nella misura in cui l'umanità è consumatrice, acquirente di merci capitalistiche. Non dovrebbe esservi dubbio che il rapido aumento della popolazione nella Nigeria del Sud o nel Borneo del Nord ha per il capitale, come base dell'accumulazione, scarso interesse. Forse che l'allargamento della cerchia degli acquirenti di merci capitalistiche dipende dall'aumento naturale della popolazione? Se il capitale dovesse aspettarsi prospettive di accumulazione dall'allargamento del suo raggio originario di acquirenti per effetto dell'incremento naturale della popolazione, è chiaro che si troverebbe ancora oggi nelle spire dell'epoca manifatturiera. Ma il capitale non si sogna affatto di aspettare, anzi, per allargare le basi della propria accumulazione, ricorre ad altri metodi sintetici, l'attacco con tutti i mezzi della violenza politica, contro l'economia naturale, contro l'economia mercantile semplice, per crearsi sulle loro rovine sempre nuove cerchie di acquirenti delle sue merci in tutte le parti del mondo. Ma tutti questi metodi incidono drasticamente sull'incremento della popolazione dei paesi e popoli su cui si esercitano. Perciò la cerchia degli acquirenti di merci può crescere mentre la popolazione diminuisce. In realtà, il metodo capitalista della creazione di un mercato mondiale attraverso l'assalto all'economia naturale primitiva procede di pari passo con la decimazione, per non dire la distruzione, di intere stirpi. Questo processo accompagna lo sviluppo capitalistico dalla scoperta dell'America fino ai nostri giorni. Si pensi agli spagnoli nel Messico e nel Perù nel secolo XVI, agli inglesi nell'America del Nord nel XVII, in Australia nel XVIII, agli olandesi nell'arcipelago malese, ai francesi nel Nord Africa, agli inglesi in India nel secolo XIX, ai tedeschi nell'Africa del Sud-Ovest nel XX secolo. Allo stesso modo, le guerre del capitale europeo per l'apertura della Cina hanno portato a massacri in grande stile della popolazione cinese e perciò inevitabilmente a un ritardo nel suo incremento naturale. Mentre l'allargamento della base dell'accumulazione del capitale in paesi non capitalistici è così legata ad un parziale annientamento delle popolazioni locali, nei paesi in cui la produzione capitalistica ha le sue radici, è esso accompagnato da altre incidenze sullo sviluppo naturale della popolazione.